Benissimo. Invece per lo spettacolo c'è qualche riferimento web, pagine Facebook, siti internet? Allora, sicuramente si può andare sul sito del Teatro Vascello, noi siamo al Teatro Vascello, ricordo il 31, che è un giovedì alle ore 21, all'interno di una rassegna di teatro contemporaneo che si chiama Exit e che è arrivata al decimo anno ed è una... Sì, l'abbiamo già presentata con uno dei curatori, sì. Esatto, quindi insomma è una rassegna importante, noi chiudiamo la rassegna il 31 perché è l'ultimo giorno. Anzi, in questi giorni andate anche al Vascello a vedere gli altri spettacoli, perché sono tutti spettacoli che meritano moltissimo, Benissimo. tutti gli spettacoli presenti nella rassegna. Bene. Allora, Daniela, io ti ringrazio, un abbraccio e ricordiamo di chi è La Terra, ballata per Chicco di Grano, Pannocchia e Sacchetto al Teatro Vascello a Roma il 31 maggio. E a questo punto ci diamo appuntamento anche per il film, ci sentiremo più avanti. Sì, grazie dell'apertura e dell'invito e non vediamo l'ora di venirne a parlare. Un abbraccio, a presto. Grazie, un abbraccio, a prestissimo. Siamo con Federica Tuzzi per parlare della nuova apparizione di Ugo, stavolta al Gay Village il 1º giugno. Federica, ben trovata. Ben trovato a te. Buongiorno. Allora, che definizione daresti tu di Ugo? Come lo descriveresti? Beh, cominciamo a dire che fondamentalmente è una sigla che significa Unidentified Gambling Object, quindi sarebbe oggetto dichiarante non ben identificato, quindi è difficilissimo identificare un oggetto che non vuole farsi identificare. In effetti è un po' così perché è un contenitore spettacolo che ospita identità molto diverse, con stili molto diversi. Cioè ci sono, siamo un gruppo di attrici, performer, io sono più una racconta storie, Mera una cantante, ci sono altri cantanti. Quindi la formula è varia, non ci diamo un tema, perché durante una serata soltanto su un unico tema pensiamo che sia un po' noioso. Quindi ci siamo date come unica regola di non superare gli 8 minuti e di lasciare le creatività di ciascuno libere di esprimersi. Quindi definire Ugo, forse più mi rendo conto che poi man mano che andiamo avanti riunendoci, e adesso dirò anche chi siamo più precisamente, viene più fuori quello che non siamo. Dobbiamo parlare del fatto che non facciamo cabaret, non ci occupiamo delle che normalmente ci si aspetta che le donne debbano trattare, cioè degli argomenti che le donne debbano trattare, quindi è più in negativo, un po' come il Daimon di Socrate, no? Che ci definiamo. Ok, fatto sta che comunque siete tutte donne e sono tutti monologhi con spazio anche per la musica. Con spazio anche per la musica. Sì, per esempio io e Mero, che siamo le Nocioi, portiamo storie musicate, questo è un po' il nostro stile, facciamo Sì. musical storytelling, però ci sono anche attrici che portano monologhi, satire, si fa anche stand up, ci sono poesie. Stiamo parlando di veramente, come dicevo prima, di stili diversi. Pensa a Arianna Dell'Arti, la sua ricerca proprio su questi stati interiori che vengono in qualche modo personificati, Paola Michelini che dà vita sempre a questi monologhi così surreali, Betta Cianchini, Cristiana Vaccaro, Cristina Pellegrino, Annalisa di Anticordone, siamo veramente tutte molto diverse. Poi il bello di Ugo è che è un network, quindi ci sono autrici, per esempio Elisa Simonelli, Veronica Raimo, anche io ho fatto l'autrice per Paola Michelini, e molti pezzi sono stati presi da alcune attrici, quindi dei pezzi scritti da alcune autrici e sono stati portati in scena, però alcuni sono stati scritti ad hoc. Sono nate proprio delle collaborazioni, quasi dei binari preferenziali, per cui Veronica Raimo lavora moltissimo con Cristina Pellegrino, Carmen Barbieri ha fatto delle letture alla presentazione del libro di Veronica Raimo, io lavoro molto con Paola Michelini che è venuta a leggere alla presentazione del mio libro, cioè si è creato veramente un network di artiste, anche un'amicizia fra noi, anche contrariamente a quanto si pensa che le donne sono sempre in competizione fra loro, no? In realtà ci sosteniamo molto, volta che ognuna di noi fa qualcosa, sì, c'è sempre un gruppetto che viene a sostenere o che posta l'evento incoraggiando altre persone. E questa è una dimensione molto, molto bella, probabilmente nasce anche dalla crisi, no? Sì. Dalla necessità di fare rete. Sì, sì, sì. Federica, più o meno la formula c'è un momento conviviale, almeno per quello che l'ho vissuta io, un momento conviviale prima e poi la performance che dura circa un'ora e mezza. Un po' meno di un'ora e mezza, noi appena adesso siamo state, abbiamo superato di pochissimo l'ora. Ah, ok. Abbiamo fatto 5 edizioni fino ad ora nella sede di Radio Rock, perché Petra Cianchini lavora lì, ci ha proposto questa bellissima sede e abbiamo accettato. E quindi la formula è stata che prima si invitavano gli amici per bere, per fare insomma, il classico aperitivo, e poi c'era la serata. Sì. Adesso ci saranno invece delle uscite estive, di cui la prima, come abbiamo detto, è il 1° giugno al Gay Village, quindi la formula cambia un po', nel senso che... C'è un primo grosso cambiamento, insomma. Grossissimo, viene tutto perché saremo all'aperto per la prima volta. Sì. Poi siamo in un grandissimo contenitore che ci ha voluto proprio quasi per l'inaugurazione, perché il Gay Village apre il 31, il primo spettacolo ufficiale siamo noi. Una cosa a cui tengo è che lo spettacolo inizia alle 9, quindi magari con un pochissimo ritardo, però chi entra entro le 21 paga soltanto 3 euro, quindi è una formula quasi gratuita. Quindi sì, un pochettino cambia, perché comunque Ugo è anche molto plastico, essendo poi composto di moduli diversi, si adatta bene a diverse situazioni, a diversi contesti. Per la Summer Edition, relativamente al Gay Village, abbiamo proprio deciso di fare the best of. Sì. Anche se poi qualcuna di noi porta dei pezzi inediti, per esempio io e Nero portiamo un pezzo che non abbiamo ancora fatto ad Ugo. Senti, come mai la scelta del Gay Village? Beh, ci hanno invitato. È stata una richiesta. Ok. Nel senso che Ugo è stato invitato e più che altro l'ufficio stampa che si occupava della rassegna teatrale era venuto a vedere Ugo. Sto parlando di Carla Fabi e Roberta Savona, sono venute a vedere Ugo più di una volta, si sono innamorate del progetto e quindi si hanno volute al Gay Village. E sicuramente sostenere un'operazione come quella del Gay Village, che poi quest'anno torna a testaccio per la prima volta da un lunghissimo esilio. Sì, città dell'altra economia. La città dell'altra economia. Loro avevano cominciato lì nel 2002 e poi dopo 2 stagioni sono dovuti migrare per problemi con il vicinato, quindi adesso è un po' come se tornassi a casa in un momento in cui non è che proprio si sta benissimo fondamentalmente, non solo rispetto alla questione omosessuale, ma proprio rispetto a questioni di convivenza civile con vari soggetti altri, quindi è anche un segno politico di sostegno. Sì. Allora io leggo Betta Cianchini, Annalisa Dianti Cordone, Arianna Dell'Arti, Liliana Donna Fiorelli, Paola Michelini, Eleno Choice per l'appunto, Cristina Pellegrino, Veronica Raimo, Elisa Simonelli, Francesca Stash e Cristiana Vaccaro. Queste sono quelle indicate. Ok, questa è la formazione al completo, 1° giugno. Ok, allora ricordiamo l'appuntamento al Gay Village, alla città dell'altra economia a Testaccio, il 1° giugno alle ore 21. Fede, un abbraccio. Le 21 paga solo 3 euro, mi raccomando, ci teniamo perché dopo le 21 costa 15, quindi per pochi minuti non ne vale la pena. Dai, dai. Ok, un abbraccio e un ringraziamento a Federica Tuzzi. Fede, ci vediamo lì, un abbraccio. Ci vediamo l'uno, un abbraccio a te e a tutti. Siamo con Alessandro Pera, che sarà in scena a Baracca e Burattini a Roma il 1° giugno con Quando il piave non mormorò. Alessandro, ben trovato. Salve, buongiorno a tutti. Come lo descriveresti? Guarda, è uno spettacolo di narrazione con musica, quindi è una narrazione con un solo personaggio, sono io che racconta, e poi ci sono le musiche con Emanuele e Lucia, e Emanuele Gentile e Lucia Persia, che cantano canzoni di lotta e canzoni tradizionali, canzoni sulla guerra. Lo spettacolo è dedicato alla prima guerra mondiale, di cui sono trascorsi 100 anni. Che racconto hai messo in piedi? Ma

così magari è una cosa divertente, invece ci sarà uno spettacolo a sorpresa, quindi gli spettatori non sapranno che cosa vedranno se non alle 8, quando comincerà appunto il sipario, si aprirà e il pubblico vedrà chi avrà di fronte a sé. Bene. Allora, io come riferimenti vedo che c'è la pagina Facebook proprio dedicata alla rassegna, Rassegniamoci, giusto? C'è una pagina Facebook, c'è il sito, sì, che è Scoop Teatro, e c'è il sito di Scoop dove si trovano tutti gli aggiornamenti. Volevo solo ricordare appunto che tutti i martedì alle 7 c'è un aperitivo, alle 20 siamo molto puntuali, comincia lo spettacolo. E poi c'è il dopo cena, tutti i martedì fino al 29 maggio. Perfetto. Che dire? Io ti ringrazio, Esther. Aspetta, sì. Lo sai che volevo dire invece? Insieme a me, naturalmente, vabbè, io sono un po' alla voce, ma insieme a me lavorano tantissime persone a questa rassegna. Da Giancarlo, Martina, Pier e Leonora, insomma, io un grazie particolare lo devo a loro perché le idee sì, sono sempre belle, ma se non c'è un gruppo che poi le realizza, difficilmente, ecco, trovano spazio. Allora, un abbraccio, un in bocca al lupo. Grazie, grazie. Ciao, a presto. A presto, ciao. Siamo con il nostro Simone Nebbia di Teatro e Critica per la settimana teatrale romana. Simone, ben trovato. Buongiorno a tutti. Cosa abbiamo? Beh, guarda, non abbiamo una settimana particolarmente densa di tante cose, però quelle poche sono comunque piuttosto intriganti. Non è tanto densa perché cominciano i festival in giro per tutta Italia, e quindi questo è il momento in cui Roma incomincia ad andare in ferie dal punto di vista teatrale, tranne che per alcune cose che però ci andiamo a vedere. Intanto ti dico che io sono al festival appunto a battezzare questo inizio stagione proprio col festival di primavera, che è Primavera dei Teatri qui a Castrovillari. Sono con la redazione di Ucrivu, sta componendo il primo numero di questo giornale che del festival, che sarà in giro per la città di Castrovillari. Saremo qui fino a domenica, non vedremo questi spettacoli che saranno in questa settimana a Roma, ma sapremo comunque consigliarli. Allora, dunque, questa settimana abbiamo sicuramente una grande attenzione per ciò che riguarda il dominio pubblico, ma ci arriviamo a questo. Sì. Ti dico intanto, ti porto in teatro dove non andiamo mai, mi ritorna questo comunicato stampa, mi fa piacere poterlo segnalare, non solo per il teatro Euclide, dove con difficoltà siamo andati in questi anni, ma anche perché a presentare un lavoro sarà il gruppo Igramul di Magna Castelfranchi, però è presto, insomma ne parleremo magari settimana prossima, perché sì, questa settimana presenteranno soltanto una parte del materiale, ma sarà la settimana prossima il vero lavoro in scena. Per ciò che riguarda appunto invece il teatro Mascello, continua anche questa settimana Exit, sarà in scena fino al 31 maggio. Questa sera è per vedere Nicola Vicidomini con Veni Vicidomini, appunto. Questo lavoro di Exit è uno spettacolo invidito tra Scapezzo e Fauno, sono i due personaggi che Nicola Vicidomini, un personaggio piuttosto curioso, porta sul palco del Teatro Mascello, una sorta di excursus poetico senza alcun approdo, una sorta di cortocircuito nel fallimento come condizione universale. Quindi molto divertente la presentazione di Nicola Vicidomini. Il 30 maggio invece I Volti di Faust, Abraxa Teatro, questa compagnia che porta in scena questo lavoro con la regia di Emilio Gerazzini, sono molti gli attori in scena, ed è un lavoro appunto dedicato alla figura di Faust, evocato nelle emozioni e nei caratteri più contemporanei della leggenda, ma attraverso i testi di grandi autori come Goethe e Marlowe. Continuiamo il 31 di maggio con Di chi è la terra, ballata per chicco di grano, pannocchia e sacchetto, alle ore 21, sempre del 31 maggio, con Daniela Giordano. Gaetano e Danila Massimi. La compagnia si chiama CRT Scena Madre. Sì. E proprio mi piace segnalarlo perché portano questo lavoro dedicato all'Africa, che era già stato a Festa d'Africa Festival, il Festival Internazionale delle Culture dell'Africa Contemporanea, che abbiamo seguito già tanto negli anni passati. Questa è la settimana anche in cui c'è il premio Attilio Cortini, Salviamo i Talenti, al Teatro Vittoria, dal 30 maggio fino al 6 giugno abbiamo appunto ospitato il premio dal 30 maggio con Carlo, una ballata di Giulia Bartolini, un uomo magro, paranoico e innamorato, non vive con sua moglie in una piccola casa fuori città, e Carl, andremo a vedere qualcosa che ha a che vedere con la sua vita e le tante domande che suscita la sua esistenza. Il primo giugno sarà invece l'occasione per vedere Julie da Strindberg con la regia di Eustachio Guida e Riccardo Maggi. Siamo nell'Ottocento, in una cittadina svedese. Julie, figlia di Ugo, che decide di passare la festa di San Giovanni a casa insieme alla sua servizio di andare con i nobili. Cosa succederà alla vita di Julie? Lo scopriremo attraverso la scrittura di Strindberg il primo giugno alle ore 21 al Teatro Vittoria. Poi il resto, beh no, ne possiamo parlare perché lunedì prossimo torna in scena Matteo Fasanella con la regia di Cyrano de Bergerac da Rostand, Miralto, Matteo Fasanella per questo lavoro, dedicando al grande personaggio del buon Rostand, Cyrano de Bergerac, questo suo spettacolo, il poeta, l'amore, il genio, le virtù e l'uomo, fondamentalmente tutto questo. Questo per ciò che riguarda la rassegna Salviamo i Talenti. E a me appunto non resta che portarti naturalmente all'interno di un mio pubblico, e comincia stasera al Teatro India, e sarà un festival non solo dedicato al teatro, ma ci sarà anche musica, ci saranno incontri, laboratori, insomma è qualcosa di piuttosto ampio, appunto. A cominciare questa sera è uno spettacolo che segnalo perché ho già visto, ma è la prima romana, ma io l'ho visto altrove, ed è Victor di Vincenzo Barzotti con la regia di Sandra Ventrella. Mi piace segnalarlo perché si fa poco teatro di figura, ma il loro è un teatro di figura molto, molto intenso e di grande livello, ispirato al romanzo Frankenstein di Mary Shelley. Sono le 18, segue sempre al Teatro India alle 20:15 La Contessa fra i sessi di Eugenio Mastandrea, un lavoro piuttosto curato, siamo a Firenze nei primi anni del Novecento, molto elegante. Tra le tante figure che animano il famoso caffè del Giubbe Rosso c'è la contessa Maria. Questo mistero che si porta a questo personaggio, ho avuto modo anche di leggere il testo di questo lavoro, molto interessante. Ancora prima romana per alle 21:30 sempre Teatro India, Giardino dei Ciliegi, lavoro di Kepler 452 di Bologna, questa compagnia di Nicola Borghese, Paola Aiello, Ludovico Guenzi, che lavorano su il tema della casa e il tema soprattutto della felicità di due perfetti sconosciuti in realtà, che hanno vissuto in una casa colonica e come dato un viso concesso dal Comune di Bologna per tanti anni, poi finché ricevono l'avviso di sfratto. Questo è la vicenda di Annalisa e Giuliano, che saranno in scena come persone comuni, ma con persone insomma a cui si devono tutti i fatti di cui si narra. Seguirà poi il 30 di maggio, che è domani, Pollini di Alessia Giovanna Matrisciano. Proseguiamo con un lavoro di Alessandro Blasioli, e la Nea Riccardo di Giacomo Sette con Sofia Bologna, Marco Guglielmi. Non vado tanto oltre perché insomma dobbiamo ancora sentire Tiziano Panici. Mi fa piacere segnalare più in là nei giorni sicuramente che ci sarà questo lavoro il 2 giugno, sempre domenica, con la regia di Clara Sancricca, che è una regista che più di una volta ci siamo trovati di fronte, e il 3 giugno una creazione di Mauro Santopietro dedicata ai Giusti di Albert Camus, chiama Sbagli, appunto. Un'altra cosa che segnalo: il 3 giugno l'arrivo a Roma di una compagnia molto interessante, che sta insomma diventando molto interessante, si chiama Amor Vacui, con domani mi alzo presto, quindi il 3 giugno, sempre al Teatro India, alle ore 20:30. Stesso giorno in cui la tappa romana delle ragazzine stanno perdendo il controllo, la società Le Beve, alla fine è azzurra, il lavoro di Eleonora Tipo, alle 21:45 arriverà, diciamo, nelle sale del Teatro India. Per ciò che riguarda la musica, mi fa piacere segnalare tra le tante cose, il 1 giugno nel foyer alle 22:30 un'artista tutta da scoprire, un po' particolare, la sua lei è una cantautrice si chiama Marianna Leoni, che parte dal soul ed arriva fino all'elettronica. Mi è capitato ad ascoltarla più di una volta, abbiamo anche condiviso un palco e le dico bella. E quindi mi fa piacere poterla segnalare il 1 giugno al nel foyer del Teatro India, Marianna Leoni. Ma tutti i giorni c'è un programma di musica sempre nel foyer, è tutta una rassegna. Sul sito di dominio pubblico la possiamo andare a vedere, e per il resto, insomma, parleremo poi con tutta la musica. È tutto, Federico. Simone, un abbraccio e alla prossima. Alla prossima, ciao. Ciao, caro. Questo è lo spazio dedicato al teatro su Radio Onda Rossa, il martedì alle ore 14, con interviste su spettacoli, festival e rassegne in corso. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.